Film Talk, Sputnik on Radio. Del Capo, Radio Metropolitana, siete su Muntalk con Chiara e Marta, 94.7, 96.250. Praticamente stasera parleremo del Mad Club. Se volete scriverci potete farlo su Marta montocredio@gmail.com. Sì, e poi per il podcast e la scaletta della serata potete trovarla su moontalkradio.blogspot.com. Guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dash to tango, skipped the life and dangle. A certain aunt princess seemed to lost her senses, down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pitch, she couldn't make it on her own. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Me on King Kong, standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. said, Daddy, I don't wanna go to school, cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool, and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear my shirt and tie, and run with the creeps, cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart, gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jar. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song, cause deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers, driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. New York della fine degli anni 70 si trovava in una grave crisi economica. I livelli di disoccupazione nella città furono i più alti della storia, con quella giovanile al 60%. La città fu abbandonata da molte famiglie borghesi e si formarono sacche multietniche che si appropriarono di palazzi e quartieri a basso prezzo o abbandonati. Nella difficoltà, molte realtà ben prima distinte si trovarono a confrontarsi. Nacquero dunque sì i ghetti, ma anche terre di nessuno, spesso pericolose ma dinamiche, dove ragazzi senza lavoro ed in cerca di ispirazione trovarono nella strada una casa. Reggae, soprattutto il Roots Movement, il hip hop, la street art e punk hardcore, insieme al glam rock, si trovarono a condividere le stesse situazioni e spesso la stessa strada. Il Mud Club era un nightclub situato nella cosiddetta Tribeca, un quartiere a Manhattan, New York, acronimo che significa Triangle Below Canal Street, triangolo sotto Canal Street, che comprende dunque l'area attorno a Canal Street, West Street, Cortlandt Alley, Broadway e Chambers Street. Il Mud aprì nell'ottobre del 78 da Steve Mass, Diego Cortez, curatore d'arte, e Anya Phillips, manager e compagna di James Chance, James White. Situato a 77 White Street, divenne molto presto un luogo di incontro per la scena underground e counterculture, termine che significa andare controcorrente, fino alla chiusura nell'82. Il nome del Mud Club deriva dal nome del dottore che curò James Wilkes Booth. Sai chi è? Sì, è quello che aveva fatto l'attentato ad Abramo Lincoln. Hai studiato, bravissima, sì sì. Ma sai anche che passò il resto dei suoi giorni sulla USS Montauk, come lo dici tu? Questo sì. Non lo sapevo. Nave della Marina americana servita poi appunto come prigione. Il Mud Club funzionava come antidoto alla scintillante Studio 54, forse il club più famoso, no, di New York. Sì. Il MUD era, sì, frequentato da artisti, musicisti, intellettuali del tempo, però aveva un'area più distesa e funzionava più come luogo di incontro e recipienti di sperimentazioni. Al MUD infatti si potevano ascoltare i gruppi emergenti, soprattutto New Wave, ma anche vedere sfilate di moda di tipo Anna Sui e Jasper Conrad, e si potevano sentire inoltre icone letterarie del tempo come Burroughs e Allen Ginsberg, poeta della cosiddetta Beat Generation, che si sono formati un po' negli anni 60, ma poi hanno continuato la loro attività anche negli anni 70 e 80. America è una poesia tragicomica di Ginsberg che vi vorrei far sentire adesso con musiche di Tom Waits, dove Allen chiede spiegazioni alla sua America nelle sue contraddizioni, dunque a se stesso come uomo, come cittadino americano del tempo. Quindi andiamo a sentire Allen Ginsberg con America, musiche di Tom Waits. America. America, I've given you all, and now I'm nothing. America, $2.27, January 17th, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good, don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. America, when will you be angelic? When will you take off your clothes? When will you look at yourself through the grave? When will you be worthy of your million Trotskyites? America, why are your libraries full of tears? America, when will you send your eggs to India? I'm sick of your insane demands. When can I go into the supermarket and buy what I need with my good looks? America, after all, it is you and I who are perfect, not the next world. Your machinery is too much for me. You made me want to be a saint. There must be some other way to settle this argument. Burroughs is in Tangiers. I don't think he'll come back. It's sinister. Are you being sinister, or is this some form of practical joke? I'm trying to come to the point. I refuse to give up my obsession. America, stop pushing. I know what I'm doing. America, the plum blossoms are falling. I haven't read the newspapers for months. Every day somebody goes on trial for murder. America, I feel sentimental about the wobbly. America, I was a communist when I was a kid. I'm not sorry. I smoke marijuana every chance I get. I sit in my house for days on end and stare at the roses in the closet. Whenever I go to Chinatown, I get drunk and never get laid. My mind is made up. There's going to be trouble. You should have seen me reading Marx. I have mystical visions and cosmic vibrations. America, I still haven't told you what you did to Uncle Max after he came home from Russia. I'm addressing you. Are you going to let your emotional life be run by Time magazine? I'm obsessed by Time magazine. I read it every week. Its cover stares at me every time I slink past the corner candy store. I read it in the basement of the Berkeley Public Library. It's always telling me about responsibility. Businessmen are serious. Movie producers are serious. Everybody's serious but me. It occurs to me that I am America. I'm talking to myself again. Asia is rising against me. I haven't got a Chinaman's chance. I'd better consider my national resources. My national resources consist of two joints of marijuana, millions of genitals, an unpublishable private literature that goes 1,400 mph, and 25,000 mental institutions. I say nothing about my prisons, nor the millions of underprivileged who live in my flower pots under the light of 500 suns. I have already abolished the whorehouses of France. Tangiers are the next to go. My ambition is to be president, despite the fact that I'm a Catholic. America, how can I write a holy litany in your silly mood? I will continue, like Henry Ford. My strophes are as individual as his automobiles, more so they're all different sexes. America, I will sell you strophes, 2,500 apiece, 500 down on your old strophe. America, free Tom Mooney. America, save the Spanish loyalists. America, Sacco and Vanzetti must not die. I am the Scottsboro Boys. America, when I was seven, Mama took me to communist cell meetings. They sold us garbanzos, a handful per ticket. A ticket cost a nickel and the speeches were free. Everybody was angelic and sentimental about the workers. It was all so sincere, you have no idea what a good thing the party was. In 1835, Scott Nearing was a grand old man, a real mensch. Mother Bloor made me cry. I once saw Israel Amter playing. Everybody must have been a spy. America, you don't really want to go to war. America, it's them bad Russians. Them Russians, them Russians, and them Chinamen, and them Russians. The Russia wants to eat us alive. The Russia's power mad. She wants to take our cars from out our garages. Her wants to grab Chicago. Her needs Red Readers as digests. Her wants our auto plants in Siberia. Him big bureaucracy running our filling stations. That no good. Ugh. Him make Indians learn read. Him need big black niggers. Ah. Her make us all work 16 hours a day. Help. America, this is quite serious. America, this is the impression I get from looking in the television set. America, is this correct? I'd better get right down to the job. It's true, I don't want to join the army or turn lathes and precision parts factories. I'm nearsighted and psychopathic anyway. America, I'm putting my queer shoulder to the wheel. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it musicalmente al MAD si poteva sentire un po' di tutto, dalla New Wave, abbiamo appunto sentito i Talking Heads con Once in a Lifetime, ad altre forme di musica sperimentale di quel tempo. Infatti il MAD era soprattutto conosciuto per aver ospitato sul proprio palco gruppi che si rifacevano alla New Wave. La New Wave, tendenza musicale ad artistica, nasce infatti alla fine degli anni 70 a New York e si sviluppa spesso anche nel resto degli Stati Uniti e in Inghilterra. Musicalmente la New Wave riprende il nichilismo e l'irruenza devastante e irrazionale del punk, legandoli alla nevrosi e alla cupa alienazione della vita della metropoli. Il termine New Wave rappresenta la contrapposizione di questa scena alla cultura mainstream del periodo, la New Wave appunto, come sta a testimoniare anche l'album più influente di questa tendenza, la compilation No New York di Brian Eno del 1978. A proposito di questo disco, ti vorrei parlare di Lydia Lunch. Lydia Lunch partecipò al disco di Brian Eno con il suo gruppo Teenage Jesus and the Jerks. E Lydia Lunch è una cantante, poetessa e scrittrice statunitense che arrivò a New York molto giovane e andò a vivere in una comune con altri artisti e musicisti. Divenne presto molto amica dei Suicide, entrò a far parte proprio della scena No Wave. La Lunch apparve anche in alcuni film del filone No Wave, due film diretti dagli registi Scott B. e Beth B., che erano marito e moglie. Poi partecipò al cortometraggio Black Box, in cui recitò la parte di una torturatrice, mentre in... ti piace? Ti è piaciuta? Stavo entrando sulla torturatrice. Mentre in Vortex indossò i panni di un'investigatrice privata di nome Angel Powers. In quel periodo apparve anche in alcuni film di Vivian Dick. Adesso però non vi farei sentire un pezzo dei Teenage Jesus and the Jerks, ma un pezzo di Lydia Lunch come solista. Questo pezzo è del suo primo disco, Queen of Siam, del 1979. Si chiama Atomic Bongos. Lydia Lunch con Atomic Bongos. E un altro gruppo che si trova nella compilation appunto No New York di Brian Eno del 78 sono i Contortions, che è il gruppo di James Chance, e che era tra l'altro anche il ragazzo e compagno di Anya. Di Anya Phillips, che era una delle persone che hanno aperto proprio il Mad Club. E quindi io vi vorrei far ascoltare il pezzo, insomma, un po' rappresentativo dei Contortions, che si chiama Contort Yourself. It's better than pleasure. It's more than pain. I've got what it takes to drive you insane. Now is the time to lose all control. Distort your body. Ow! It twists your soul. Control yourself. Hey, baby, you better twist it. James Chance and the Contortions. James Chance era in realtà un pianista che poi passò al sassofono, ispirato dal free jazz, come personaggi come Ornette Coleman e Albert Ayler. E arrivò nel 76 dopo aver abbandonato il conservatorio e si ritrovò nella scena punk un po' per caso. e quindi adottò, diciamo, lo stile di James Brown, però in chiave punk, appunto conoscendo poi Lydia Lunch, che avevamo ascoltato, e poi in seguito Anya Phillips, appunto del Mud Club. E a proposito di post-punk, no wave, un altro gruppo molto importante all'epoca erano i Tuxedo Moon, che erano un gruppo sperimentale multimediale, multimediale perché le prime esibizioni avvenivano proprio durante gallerie, cioè nelle gallerie, durante mostre fotografiche di pittura, e iniziano però a farsi notare durante, mentre facevano il tour dei Divo. È presente? Sì. Ok. Poco dopo il tour dei Divo pubblicarono il loro primo EP, che si chiama No Tears, e No Tears diventò proprio un hit nella scena dei clubs newyorkesi nel periodo di cui stiamo parlando. Sì, fine anni 70. Esatto. Tu immagina di entrare in un club e di ballare queste canzoni. Fantastico. Ti faccio sentire No Tears. Ok. Goodbye. Beh, io a questo punto direi Tuxedo Moon by Moontalk. Bellissimo questo pezzo, Marta. Molto bello, molto. Quindi Moontalk, Radio Città del Capo, 947 96 250, streaming www.radiocittadelcapo.it, email moontalkradio@gmail.com e il blog www.moontalkradio.blogspot.com. Bravissimo. Sì. Ok, quindi abbiamo appena sentito i Tuxedo Moon. Sì, che assieme ad altre band come i DNA di Arto Lindsay, i Plastic, Lydia Lunch, Contortions, che abbiamo Contortion sentito, che hai messo prima, parteciparono al film Downtown 81, sì, sceneggiato dal mitico Glenn O'Brien, che cura la magnifica rubrica sul Vanity Fair del buon gusto. Sì, che mi hai spiegato, cioè che mi hai raccontato stasera, io non lo sapevo. Non hai mai letto il Vanity Fair? No, l'ho letto e devo dire che lo apprezzo anche, però non ho l'abbonamento. Lui cura comunque la rubrica settimanalmente. Cioè, appunto, se non ho l'abbonamento. Se non sai come presentarti al matrimonio della tua amica, chiedi consiglio a Glenn. Quindi dal punk, mad club, tutto. Al bon ton. Esatto, sì, proprio così. E il film Downtown 81 è stato girato tra il 1980 e il 1981 e documenta un giorno intero nella vita di Basquiat. Sì. Alle prese con i problemi quotidiani di un giovane artista a New York. Sì. Dimmi. No, insomma, una cosa che mi ha un po' colpito è che è girata anche abbastanza male. Sì, però so che ultimamente hanno avuto dei finanziamenti, infatti nel 2000 l'hanno presentato a Cannes. Sì, poi l'hanno ripreso un po'. Però la cosa che mi ha colpito appunto all'inizio è che era girato abbastanza male, anche se l'idea era molto carina. E infatti anche l'inizio, dove c'è praticamente questo simbologismo tra l'inizio di una giornata e il fatto che Basquiat è proprio un ragazzino, un bambino. Sì, era molto. Quindi l'inizio inizia proprio come bambino e finisce alla sua età praticamente. Basquiat non è proprio uno dei attori più bravi al mondo, però devo dire che è interessante guardandolo adesso perché tra l'altro si vedono luoghi come appunto il Mad Club, però anche tipo The Loft, ci sono concerti al... Non mi ricordo assolutamente. Wikipedia. Wikipedia, sì. Comunque è interessante perché proprio riprende appunto la New York di quegli anni con i suoi personaggi, con la musica, con i locali e la situazione un po' anche per le strade di New York. Sì. E cosa interessante è che Basquiat, oltre ad essere stato un pittore, a questo punto anche un attore, sì. È stato anche musicista. Sì, per i Grey. Esatto, sì, proprio loro. E il gruppo nasce durante un party che si chiamava Canal Zone, esattamente il 29 aprile 1979, quando Basquiat incontra per la prima volta Michael Holman e sul momento decidono di formare una band insieme. La band appunto verrà chiamata Grey. Dicono per il libro Grey's Anatomy. Ma che dici? Sì, sì. Ora c'è il telefilm, però esiste anche un libro che si chiama Grey's Anatomy. Il mio pop. Ecco. E quindi la band, questi Grey, trovano spazio e si esibiscono numerose volte proprio all'interno del Mad Club. E tra l'altro proprio l'ultimo concerto della band di Basquiat fu nel 1980 proprio al Grey. E del nucleo originario dei Grey va aggiungersi anche l'attore, musicista, regista, allora giovanissimo, Vincent Gallo. Sì, ma infatti io ho postato sulla nostra pagina di Moon Talk su Facebook un pezzettino del film. Hai fatto molto bene. Ho fatto molto bene. Che poi magari posteremo anche sul blog, no? Ti dico anche cosa... Sì, poi, poi postiamo tutto. Ti dico anche cosa suonava Basquiat. Suonava vibrafono, clarinetto, sintetizzatore, chitarra. Non ce lo so vedere. Assolutamente sì. E anche leggeva poemi durante gli show. Faceva veramente di tutto. Non so, perché come attore mi rimane così incapace. Beh, adesso ti faccio sentire anche come musicista. Ok. I Grey. Ascoltiamo, quindi. Sì, un pezzo dei Grey. Sarà Drum Mod dei Grey, gruppo di Jean-Michel Basquiat. Beh, che ti è piaciuta? Che non è male. Ti posso leggere proprio la dichiarazione di Basquiat, sì, riguardo le proprie esibizioni. All'epoca mi ispiravo a John Cage, facevo musica che non era veramente musica, cercavamo di essere incompiuti, abrasivi, singolarmente belli. Beh, in questo dico, Siamo d'accordo. Sì, sì, siamo d'accordo. Assolutamente d'accordo. E diciamo che Basquiat entra nel Mad Club non soltanto come appunto musicista, però anche come artista. Infatti il Mad Club aveva anche una galleria al quarto piano curata da Keith Haring, artista e attivista newyorkese. Sai che nella galleria ci fu anche la prima mostra di Nan Golding? Ah, sì, prima mostra fotografica. Ma infatti Keith Haring, appunto il curatore, fu diciamo uno dei primi a fare molte cose al Mad Club nella sua galleria. Keith Haring, ricordiamo, iniziò facendo dei semplici disegni con pastelli sui marciapiedi di New York e poi divenne famosissimo per le sue figure ultra stilizzate pop. Se vi interessa, dovrebbe ancora esserci un'opera di Haring chiamata Tutto Mondo a Pisa, se mi ricordo bene, sulla parete esterna della chiesa di Sant'Antonio Abate. E tra l'altro è l'ultima opera di Haring prima della sua morte negli anni 90 per AIDS. Haring fu un esponente importante della street art del tempo e in una mostra diciamo molto importante ospitò Fab Five Freddy, che era un giovane graffitario, come curatore per la mostra intitolata Beyond Words, Graffiti Based, Rooted and Inspired Work, con fotografie di Copper e Chalfant, che erano dei fotografi, diciamo, dell'alta borghesia bianca americana, che si trovarono poi a fotografare le prime opere dei, appunto, graffitari, soprattutto i treni e, vabbè, i marciapiedi, un po' tutto. E quindi questa prima mostra trovò inoltre opere e installazioni dei giovanissimi Lee, Phase 2, Lady Pink, John Sex, appunto Jean-Michel Basquiat, Iggy Pop e Ramelis. All'apertura Fab invitò artisti come i Cold Crush Brothers, i Fantastic Freaks e i Jazzy Five di Bambata, che era la prima volta che l'hip hop appunto colpiva il downtown. Quindi io direi di sentire appunto i Jazzy Five, il gruppo di Africa Bambata, con Jazzy Sensation, un pezzo del 1981. We'll be right back. E così erano i Jazzy Five con Africa Bambaataa nel 1981, uno dei pezzi più rappresentativi dell'hip hop, un po' perché Africa Bambaataa è stato quello che ha iniziato tutto il movimento e anche perché erano appunto uno dei primi gruppi a suonare nel downtown di New York, appunto al Mad Club. Un altro gruppo rappresentativo del tempo furono i Liquid Liquid, no? Sì, avevamo anche promesso agli ascoltatori di farli ballare. Quindi magari parliamo di Liquid Liquid, un gruppo post-punk, post-disco, un po' anche come quest'ultimo pezzo di Jazzy Five, secondo me è un po' disco, no? Sì, a cui si rifanno secondo me tantissimi gruppi attuali, tipo Chic Chic Chic, sì, assolutamente. LCD Sound System. Mm. Quindi Liquid Liquid, un gruppo di New York attivo tra il 1980 e l'83, che poi è ripreso a suonare nel 2008, incredibilmente. È l'anno delle reunion. Sì. L'EP originale Optimo fu registrato da Don Handelberg in qualità estremamente limitate per l'etichetta indipendente 99 Records e poi nuovamente per la Domino nel 2008, che è sempre bravissima a riprendere un po' le cose importanti, no? Sì, sì. E Liquid Liquid? Sì, andiamo ad ascoltare Liquid Liquid con appunto il pezzo omonimo. L'hai detto giusto. L'ho detto giustissimo. Optimo. We'll be right back. Erano le ESG con Moody. Le ESG erano un gruppo di appunto New York formato da tre sorelle e un amico, e poi Larry Levan fece questo remix. Appunto nella versione di Larry Levan, la prima versione era quella originale, che ma tra è un remix di che anno? Più o meno? Wikipedia. metà anni 80. Sì, no? Non troppo più tardi, penso. Comunque le ESG sono stati un gruppo che ha inciso con la 99 Records, quella con cui ha inciso anche Liquid. Infatti si sente un po', no? La somiglianza. Sì. Cioè la voglia di andare oltre, forse, sia con le forme tribali che con le forme di punk oppure hip hop. si sente il miscuglio un po' di tutto, no? Sì. E le Isgi quindi erano quattro sorelle, non tre come ho detto prima. No, erano tre sorelle. No, quattro. No, io so tre sorelle. René, Valerie, Deborah e Mary. Guarda. E l'amico Tito Liburn, lo dice io qua. René, Mary e Valerie. No, tu c'è anche Deborah. C'è anche Deborah. C'è anche Deborah. Ed erano del South Bronx, che poi diventarono appunto molto famosi nel downtown, anche grazie al Mad Club e altri locali del genere, come appunto del Loft, eccetera, eccetera. E se volete sapere di più delle ESG, vi consiglio il MySpace, perché ancora suonano in giro, incredibilmente. Ormai bicentenaria. Sì. E poi, insomma, anche per la puntata di stasera, io vi consiglio il disco della Soul Jazz Records, che appunto si chiama New York Noise, e che è Dance Music from the New York Underground dal 1978 all'82. E ha un libretto favoloso con cui vi confermo. Confermi. Invece, Chiara, io vorrei un po' smorzare questa atmosfera un po' troppo danzereccia parlando di Klaus Nomi. Sì. Klaus Nomi è un cantante tedesco che ben presto si trasferisce a New York e è uno dei personaggi più bizzarri degli anni Ottanta. Diventa proprio una figura di culto nella scena new wave americana e è un controtenore genuino che cantava canzoni pop però come se fossero opera. Oddio. Sì, però era troppo punk per essere opera e troppo operistico per il punk. Questo fu un grande problema per il nostro Klaus. Un pesce fuor d'acqua. Sì, in tutti i contesti. Sì. Però Nomi riesce a portare il suo lavoro proprio in contesti più disparati, tra cui anche il nostro Mad Club, dove il punk però allora stava nascendo. La sua opera ha influenzato la musica contemporanea per generazioni a venire, nonostante la sua vita sia stata quella di un astro bruciato. Infatti è tra i primi a morire di AIDS. E nel 1978, quando ormai a New York era più o meno famoso nell'ambiente underground, venne notato da David Bowie, che lo impiegò come cantante di background per lo spettacolo Saturday Night Live per la televisione NBC. Questa esibizione per Nomi fu il primo grosso successo, gli valse un primo contratto discografico. Tra l'altro, proprio il nostro David Bowie si sarebbe in seguito fortemente ispirato a Nomi nella scelta dei costumi, perché Nomi si ispirava nella scelta dei costumi alle maschere kabuki giapponesi. Sì, si truccava di bianco con le labbra nere e corredato d'abbigliamento e pettinature cubiste. Ti farei allora sentire proprio una canzone tratta dal primo disco di Nomi. Il primo disco è dell'81, se non mi sbaglio, e si chiama Klaus Nomi, è un disco omonimo. Lo dico io. Dillo tu. Disco omonimo. E la canzone si chiama Lightning Strikes. Listen to me, baby, you got to understand. You're old enough to learn the makings of a man. Listen to me, baby, it's time to settle down. Am I asking too much for you to stick around? Every boy wants a girl he can trust to the very end. Maybe that's you, won't you stay? But till then, when I see lips begging to be kissed, I can't stop. I can't stop myself. No! Has taken over my one track mind. Believe it or not, you're in my heart all the time. All the girls are saying that you'll end up a fool. For the time being, baby, live by my rules. When I settle down, I want one baby on my mind. Forgive and forget, and I'll make up for all lost time. If she's put together fine, then she's on my mind. I can't stop, I can't stop. Avete appena sentito Klaus Nomi con Lightning Strikes. Molto divertente, Marta. Sì. Mi stupisce. A proposito, hai visto, so anch'io essere divertente a volte. A proposito di cose divertentissime, ti faccio, dici, sentire, Marta, ti faccio sentire anche i B-52s. Mm-hmm. Con il loro primo singolo, Rock Lobster. E ve li faccio sentire perché il primo concerto dei B-52s fu proprio al Mad Club Mitico. Di New York. Ok. We were at a party. The dear Lord fell in the day. Someone reached in and grabbed it. Balla tanto a Radicità del Campo, stasera. Chiara saltella sulla sedia. E quindi questo era? Questo era Rock Lobster. Ok, me lo scrivo. Day? Day? B? B? 52. Brava, sei stata attenta, brava. E adesso che cosa ci fai ascoltare, Marta? Adesso vi faccio sentire un pezzo di Grace Jones. Bravissima. Perché se da una parte c'era il Mad Club Underground, dall'altra c'era lo Studio 54, sì. Locale per fighetti. Locale per fighetti, sì. In cui si esibiva molto spesso Grace Jones. Che andava a braccetto con Andy Warhol. Sì. Però diciamo che erano intercambiabili. Ma diciamo che quando i fighetti capirono che il nostro Mads era diventato ormai hipster, con le loro limousine cambiarono strada e andarono verso il downtown New York. Perché che ne so, Andy Warhol era un grande estimatore di, che ne so, Basquiat, che invece era uno che frequentava il MAD. Quindi per vedere i personaggi del MAD, alcuni dello studio 54 appunto venivano al MAD. E diciamo che il MAD era un posto un po' più tranquillo, non era proprio un nightclub, era un posto dove potevi berti una birra in tranquillità e magari parlare, e poi vederti un concertino, e poi forse, io non lo so, non noi, c'ero. Noi di Muntoka ce lo immaginiamo così. Ce lo immaginiamo così. Non c'ero. Però mi immagino che magari alcuni dopo andavano invece appunto allo studio 54. Chi lo sa? Chi lo sa? Ci ascoltiamo Walking in the Rain di Grace Jones. Grande. Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, oh so rad, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking. Walking in the rain. Feeling like a woman. Looking like a man. Sounding like a no-no. Making when I can. Whistling in the darkness. Shining in the light. Coming to conclusion, right is night is time. Walking, walking in the rain. Questa era Grace Jones con Walking in the Rain, un pezzo bellissimo di Grace Jones. Sì, tratto dal disco Night Clubbing. Che appunto frequentava non soltanto il Club 54, come pensate voi, ma anche il Mad Club. Ma comunque, secondo me Grace Jones è un po' rappresentativa di quello che succedeva in quel tempo. Un po' perché appunto era di origine giamaicana, quindi magari... Se si fa risalire tutto il movimento hip hop ha comunque quel movimento giamaicano che si chiama il Roots Movement, no? Sì. Con la musica reggae e in più anche la rivoluzione sessuale, se vogliamo, l'esperimentazione. Vabbè, tu hai finito sempre lì, vabbè. No, però è vero, anche se negli anni Ottanta poi c'è l'AIDS e comunque tutta la problematica, e comunque era un periodo anche molto cupo, comunque si sentiva ancora quella forza degli anni Sessanta di sperimentare, di libertà sessuale. E Grace Jones, secondo me, nella sua femminilità maschile... Sì, no? Sì, ti seguo. Mi segui? Ti seguo. Era una di quelle androgene, però che adesso vengono viste come, anche se vuoi, un modello di femminilità. Ma invece l'ultimo artista di cui parliamo questa sera, secondo è molto, te? Molto, molto, molto, molto, molto più femminile. No, no. Come no? Allora, no. Al tempo, secondo me, lo era. Adesso come adesso la trovo disgustosa. Dopo che si è fatta crescere i bicipiti, come... Sì. No, ma a parte quello, però anche, boh, cioè, a un certo punto, secondo me, un artista si deve rendere conto che non ce la fa più. E quindi dovrebbe mollare, secondo te? Dovrebbe assolutamente mollare. Ah. Beh, ma adesso leggevo proprio sul nostro Vanity Fair che vuole un figlio anche dal suo Jesus. No. Sì? No, se non avete capito, stiamo parlando di Madonna, che appunto adesso sta con Gesù. A 50 anni vuole un figlio naturale dal suo 21enne Gesù, che secondo me è proprio, questa è una bestemmia. Se c'è una bestemmia è Madonna che sta con Gesù a 50 anni. Ma noi però adesso vi facciamo sentire la Madonna degli anni d'oro, anche questo è il primissimo singolo di Madonna. Il primo singolo, sì. E quando... Madonna stava al Mad Club o allo Studio 54? Dove al stava? Mad Club con Basquiat. Ma secondo me stava allo Studio 54. Sì, però quando frequentava Basquiat stava con Basquiat al Mad Club. Poi l'ha lasciato perché faceva uso di troppe droghe. Chi? Madonna, Basquiat? Basquiat. Comunque su Wikipedia c'è l'elenco di tutti gli amanti uomini di Madonna. È bellissimo. Potremmo fare una puntata di Moon Talk su questo argomento. Ci sto, Marta. Tra qualche mese ci sarà la puntata sui uomini di Madonna. Quindi andiamo a sentire. Concludiamo la serata. Appunto. Beh, magari prima diamo i nostri recapiti. Recapiti, ok. Quindi Moon Talk, Chiara e Marta. Scriveteci a moontalkradio@gmail.com. Seguite il nostro blog per la scaletta e poi per sentire magari le puntate precedenti su moontalkradio.blogspot.com. Facebook, Moontalk e basta. Chiara, puoi anche aprire un Twitter? No. Così in tempo reale ci aggiorni su tutto quello che stai facendo? Twitter no, grazie. Vabbè, allora ascoltiamo Everybody di Madonna. E vi salutiamo, speriamo di avervi fatto ballare abbastanza stasera. La prossima puntata, Marta? Non ho ancora deciso. La prossima puntata tocca a Marta, quindi lamentatevi con lei. Ciao a tutti. Everybody di Madonna. Watching you, yeah, I know you wanna get up, yeah. Moon Talk.